lascio che il mio cuore si inondi di pace. Lascio che la luce divina invii i suoi raggi. Lascio che io muoia d'amore. Lascio che io muoia per te, amore infinito, amore infinito, amore infinito, amore.